vado al massimo, vado al massimo, vado al massimo, vado a gonfie vele, yeah, a gonfie vele. Voglio proprio vedere, e voglio proprio vedere, cioè voglio proprio vedere come va a finire. Sul giornale.